base. Motherfucker Frankie good time. Motherfucker Nuki bomb time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love Frankie pam pam the base. Pensa al mio futuro, il mio passato, il mio presente. Pretendo solo una risposta rassicurante. Caffi su una tela mi ritornano in mente. Anno dopo anno si riprende, si sente. Ciò che faccio, ciò che ho fatto quando parlo rielaboro. Ricordando che non c'è altro termine per spiegarlo. Hip hop, so solo amarlo. Metto cuore e anima in questo progetto. Piango e verso inchiostro di getto. Rimetto, rallentando il tempo adesso. Non getto la spugna se c'ho voglia di combattere. Non metto in dubbio che non sono il migliore. C'ho voglia di fare, ho voglia di capire. È il mio vivere, aiutare. Non ho fretta, non devo andare. Preferisco reagire piuttosto che prendermi male. Motherfucker, funky, good time. Motherfucker, lucky, bomb time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love funky, pam pam the base. Motherfucker, funky, good time. Motherfucker, lucky, bomb time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love funky, pam pam the base. Vedo anime, maniche di stronzi che si placcano con taniche di benzina per le loro macchine. Troppe pratiche insolute, troppa salute. Troppe gare che mi sembrano truccate. E manca quella materia prima che si deposita in banca. Ma non ti aiuterebbe nella giungla. Aspetta che ti porgo l'altra guancia. Per mia, una faccia e cazzo non mangia. Che figuraccia davanti agli altri. Temi pregiudizi e quindi tendi a fare tardi. Bevi birra ma senza ubriacarti. Perché hai paura di perderti nel party. Motherfucker funky good time. Motherfucker lucky bomb time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love funky pam pam the base. Motherfucker funky good time. Motherfucker lucky bomb time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love funky pam pam the base. Ed è per questa gente che non si va avanti. Con tanti troppi che si sprecano in diamanti, brillocchi, forse inutili, forse utili. Generazione fatta di cloni di stupidi. Ma non ci penso più di tanto, forse è meglio. Pensa al mio progetto e ad altro. Un solo amore, una sola conclusione. Mi chiudo nel mio tempio, una nuova dimensione. Motherfucker funky good time. Motherfucker looking boom time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love funky pam pam the bass. Good time. Nei tuoi rave, pam pam the bass. Motherfucker funky good time. Motherfucker lucky bomb time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love funky pam pam the bass. Motherfucker funky good time. Motherfucker lucky bomb time. Non mi troverai mai nei tuoi rave. I love funky pam pam the bass.